Comincio, questa è anche una registrazione, bello come inizio, mi piace. E benvenuti a questo settimo episodio di Il mio salotto. E questa settimana siamo tornati alla vecchia combinazione e ci siamo io, Jacopo e... che non parla. Ciao! Ah, e Andrea, che là. Salve! Ah, invece no. E stasera parliamo di un film che è fintamente serio, finto serio. Tra l'altro leggevo oggi che su Wikipedia il genere è drammatico, il che fa abbastanza ridere visto che non vedo il dramma. E è un film che, come faceva notare Jacopo 2 secondi fa, è girato da registi che fanno film seri. Di alto livello. Da tutta una vita. Vabbè, insomma, il film in questione è Green Book, e lo so, ne hanno già parlato tutti, bla bla bla, vinto Oscar, in Italia è uscito anche con 2 anni di ritardo, e le solite cose, vabbè, noi ne parliamo adesso, perché l'ho visto adesso, e quindi, no, non è vero. Cioè, sì, è vero, ma non... vabbè, insomma. Parliamo quindi di Green Book, un film che è stato candidato a 2 Oscar, più ne ha vinti 3, più ha vinto un'altra vagonata di altri premi. Che ha scavato le classifiche. Esatto, che fondamentalmente è un film che potrebbe guardare, cioè che potrebbero mandare secondo me tranquillamente in televisione e allo stesso tempo, a quanto pare, potrebbe vincere l'Oscar. Quindi è un film... è un finto film leggero. Televisivo. Sì, è un finto film leggero e che parla di... diciamo è ispirato liberamente, non so quanto sia vero, Andrea mi dice che era tutta vera la storia, non lo so, la storia di Tony Leap e... No, non ho detto questo. E il pianista Don Shirley. E, quindi è tratto da una storia vera di questo pianista che vuole fare una tournée nel Sud America negli anni 60 e visto che negli anni 60 nel Sud America essere un pianista afroamericano come lui può risultare un problema, allora decide di ingaggiare un autista che però è anche in questo caso una sorta di guardia del corpo e un autista che è interpretato, appunto il suo nome è Tony Leap, interpretato da Viggo Mortensen, e che si presta a parlare un italo-americano un po' dubbio. Fa la sua, diciamo, la sua parodia di Pino Insegno, cioè lui che si doppia da solo praticamente. Esatto, sembra di guardare la Bellucci. E, Madonna! Insomma, la storia tratta appunto di questo viaggio da New York a diverse tappe nel Sud America e racconta anche del rapporto tra i due protagonisti, tra Don Shirley e Tony Leap. Ovviamente il clima, essendo ambientato nel 62, è un clima, diciamo, pieno di... un po' bianco. Sì, esatto. E lo è. Punta. Vabbè, magari ne parliamo dopo di questa cosa. E l'unica cosa che volevo dire adesso è che il film è stato un enorme successo e insomma appunto ha vinto quello che ha vinto e probabilmente se li è meritati anche. Volevo dire che comunque nonostante sia un film che tratta di un tema serio, che è il tema della discriminazione razziale, però lo fa come una commedia ed è un film appunto che potrebbe stare in televisione. La regia è di Peter e Bobby Farrelly insieme, no? L'hanno fatto? Credo di sì, anche se c'è scritto solo Peter Farrelly. Peter Farrelly, non lo so. Fatto sta che il regista è un regista che per ora, cioè fino adesso, ha fatto solo film comici, ma non comici inteso commedie, comici inteso comici. Cioè, scemo più scemo e comic movie e poi altri film tipo i 3 marmittoni. Beh dai, ha fatto anche Osmosis Jones. Tutta roba d'arte, insomma. E però sono... riescono appunto a fondere insieme tutti e due i temi, quindi sia la commedia sia il film più serio, mettendo anche qualcosa di musical, di musicale. Infatti, essendo il viaggio di un pianista, ne approfittano per aggiungere anche una colonna sonora del tutto di rilievo. E come ho già detto, il protagonista è Viggo Mortensen e il pianista Don Shirley, interpretato da Mahershala Ali, che ha un nome impronunciabile, non il nome d'arte, il nome reale, perché è tipo Mahershala Gilmore, e che è un attore parecchio famoso, ha vinto anche lui due Oscar. Anche lui, mi sa che Viggo Mortensen ha vinto una sega. Comunque, ha vinto due Povero. Oscar, uno qui come attore non protagonista e un altro come attore non protagonista in Moonlight, e accoglie l'occasione in questo film per recuperare dalla sua figura di merda, no, non è vero, è bravo, per l'amor di Dio, è solo la serie TV che è brutta, è in Luke Cage. Che volo pittorico. Altri attori da menzionare, c'è una Linda Cardellini che i nerd ricorderanno come moglie di Occhio di Falco in Alone in the Cage, appunto. E boh, non, mi sa che non ho altro da dire. Allora, io l'ho visto in lingua originale, non so se anche voi due l'avete visto in lingua originale. Sì. Ok, e in lingua originale secondo me vale molto perché Viggo Mortensen cerca di fare la parlata, oltre alla parlata italo-americana che gli riesce, vabbè, insomma, è un americano almeno di seconda generazione, anzi di seconda generazione, quindi ci può stare che parli così, ma riesce a fare anche una parlata molto tirata via da Buzzurro, che secondo me gli riesce particolarmente bene. Perché insomma, per un attore magari può essere facile fare una parlata impostata, però una cosa di quel tipo, insomma, non è male. E secondo me la sua interpretazione è veramente, veramente buona. E per quanto riguarda l'italo-americano, l'unica cosa che volevo dire, poi non so, ditemi anche voi, è un po' imbarazzante che non abbiano preso almeno un attore che parlasse in italiano per il nonno, visto che il nonno in teoria doveva essere calabrese. Cioè il nonno, il padre di Viggo. Però vabbè, in fondo sono americani, ci piacciono così e basta. Ho un paio di cose da dire, ma magari vi lascio parlare un po' voi prima. No, Continua, ormai è tutto. ho detto tutto quello che c'è da dire dello scheletro. Allora, un film che dicevo è andato molto bene, non ho capito perché, mentre in America è uscito a novembre, a fine novembre 2018, in Italia è uscito il 31 gennaio 2019, però vabbè, insomma, Non super. non lo so, magari c'erano altri film in mezzo che hanno impedito l'uscita o che... Fatto sta che ovviamente... No, niente, è un film che comunque... Adesso non so quanto ha incassato, tu lo sai, Jacopo? No, se vuoi ci guardo, aspetta. Guarda. 317 milioni. Ok, e sarà costato molto poco, immagino. Cioè, relativamente poco. Vabbè, sì, non è un film. È costato, dicono 23 milioni, quindi sarà 50 in totale. Sì. Cioè, immagino che ci sia una spesa non indifferente per tutta anche la coreografia e cosa, però insomma non Vabbè, è 50 milioni e ne guadagni 300 è buono. sì, ovviamente non ha effetti speciali né niente, è un film che ha fatto successo ed è un film che secondo me merita anche il successo che ha fatto. E a Jacopo non è piaciuto. No, non è vero. Questo è una menzogna. Non è Mi stai piaciuto. buttando sotto l'autobus. Mi stai mettendo in difficoltà. No, allora. Prima parlatene voi, magari, che sennò pare che. No, io, allora io, se volete, io devo dire un'ultima cosa, che che secondo me, a parte le musiche, che secondo me sono una menzione d'onore di questo film, nel senso che le musiche sono veramente, veramente, veramente belle. È vero. Sia quando lui suona, sia quando loro ascoltano la radio e lui, insomma, Tony Leap fa conoscere la musica dei negri, come dice lui. Che poi è il blues e insomma un po' di rock and roll che c'è. E fatto sta che quindi la musica è molto bella, ma secondo me l'altra cosa bella che è riuscita è che allora, se poi questo magari è personale, secondo me il tema della discriminazione razziale sembra una cosa un po' presa alla leggera. Cioè loro fanno le battutine, loro fanno le cose, eccetera, eccetera. E sembra un po' un tema, cioè, sembra un po' tirata via. E secondo me è l'esatto opposto, nel senso che secondo me è molto bello il fatto che l'ambiente, il mondo sia razzista e odi il Don Shirley afroamericano. Ma allo stesso tempo la dinamica tra i due è opposta, quindi è quasi Don Shirley che è razzista nei confronti di Tony Lip e non il contrario. E secondo me è molto interessante questa lettura, perché insomma lui ci sono due tipi di razzismo, c'è la discriminazione per il colore della pelle, c'è la discriminazione da un punto di vista culturale. Vero. E a me piace molto come l'hanno reso, perché vabbè, magari è una cosa un po' banalotta, però insomma è una buona. Alla fine le cose più semplici secondo me riescono meglio, secondo me è una buona intuizione questa, cioè di rendere l'afroamericano colto e razzista nei confronti di Tony Lip. Tony Lip che a un certo punto durante il film mi dice: guarda che questa è la tua gente. Però è evidente che non è la sua gente, perché lui è quasi un nobile, quasi un afroamericano albino, è così il podcast. mi dissocio, cazzo. No, vabbè, comunque, No, vabbè, quello che essendo dici ha di un'altra senso, classe però. sociale, non rientra nel razzismo consono, quindi è disprezzato dalla sua stessa gente fondamentalmente. La verità è che poi, vabbè, è lui stesso che si allontana dagli altri, ma questo poi è un altro discorso e rientra nella dinamica del film. Secondo me, come idea, può sembrare banalotta, può sembrare una cosa semplice e buttarla un po' in cacciara, ma è interessante. In più il fatto che sia leggera, secondo me premia il film, nel senso che non è la solita martellata nei coglioni, Sì, è che per l'amor di Dio, magari vero. serve anche fare una martellata sui coglioni perché così apre gli occhi alla gente. Questo è più un film di intrattenimento, ti può smuovere qualcosa se stai attento, ma puoi anche guardarlo e semplicemente passarti una bella serata. È vero. Cioè, in realtà D'accordissimo. sono d'accordo, però, cioè, comunque secondo me non è vero che Tony Lip non è razzista verso Don Shirley perché all'inizio si vede lui che tipo butta i bicchieri perché ci hanno bevuto i neri. Bravo, giustamente, giusto, bisogna evitare No, queste cose, queste piano, però continuazioni. lui è disposto a lavorare per lui, cosa che in È teoria. vero, però secondo me quello mostra, e qui ti dico, secondo me in realtà è leggero il film, però è abbastanza profondo in questo, che lui dimostra che cioè c'è un altro livello di razzismo che ha a che fare con i soldi, cioè che è disposto a mettere in pausa perché ci sono i soldi di mezzo, perché quella persona gli sta sopra da un punto di vista economico, quindi magari è disposto a mettere, come si dice, in secondo piano questo suo razzismo. E anche, cioè, è vero che è un film leggero, è vero che questo lo eleva, lo rende più, diciamo, godibile, lo rende anche in un certo senso più profondo di tanti altri film, paradossalmente. Però non è quello che mi ha fatto dire, cioè, forse è diventato troppo leggero, è diventato troppo, diciamo, evanescente, era leggero, però non c'era, non si sentiva, non c'era nessuna non so, nessuna cosa in più, non mi ha lasciato nulla come finito. Cioè, nonostante tu ti possa dire ok, carina l'idea di renderlo leggero, di renderlo, cioè, più semplice in un certo senso, dall'altro lato ti dico sì, però così non c'era niente in più, era solamente questa storia, è vero, la musica, ok, però non era... Vabbè, lui racconta una storia, che è la storia... Sì, sì. Di tuo padre. Però era... Non era visivamente interessante, non c'era un tema centrale che fosse che andasse un po' al di là di questa versione, insomma, light del razzismo, capito? No, cioè... ma magari è quello che vogliono dire loro, cioè magari loro semplicemente ne vogliono parlare, però in realtà ne parlano perché raccontano la storia di questo pianista. Cioè, o meglio, di questo pianista e del suo autista. Però non è impostato come film biografico, alla fine. Cioè, perché la storia è vista dal punto di vista di lui, dell'autista. È un'avventura al sud. Esatto. Sì. Quindi, però, cioè, nel senso, rispetto magari a un altro film pure biografico, che tipo, che ne so, c'è un biografico, scusami, ispirato a fatti reali, tipo Network, pure quello su Steve Jobs, cioè magari quelli sono film che sì, quello come cazzo si chiama, quello con Fassbender, esatto, un grande, quell'altro è bellissimo, quell'altro è il miglior film della storia del cinema, no, cioè magari quei film sì sono storie reali, però si concentrano su diciamo storie più universali, cioè concetti magari che vanno nella storia che hanno presentato, e qui magari, siccome quella parte è molto leggera e anche come posso dire, cioè ripetuta da altri film, da altre serie TV, mi è sembrato, cioè, questo insieme alla regia un po', diciamo, normale, non mi ha lasciato nulla come film. Lo so, cioè, poi io sono il tipo che dice che è bellissimo The Shape Water, così, però, cioè, mi ha lasciato di più quello come miglior film, tra virgolette, gli Oscar, non lo so. Ma gli Oscar non servono a niente, Salla. No, ma io non dico per gli Oscar, io dico semplicemente che il vantaggio di questo film, e anche lo svantaggio, è che lo può guardare chiunque, e se vuole può guardarlo con l'occhio di uno che, insomma, che guarda, cioè... che affronta il tema della discriminazione. Con l'altro uno può semplicemente dire: guarda, mi voglio vedere un bel film di quelli che danno il venerdì sera su Italia 1, ed è questo film. Non so se Italia 1 il venerdì sera fa film. Non, cavolo! Non abito in Italia da 4 anni, da 5 anni. questo film è tipo il post studio aperto, cioè proprio perfetto, cioè questa palla di razzismo e sessismo, e dopo c'è questo film. No, vabbè, però, boh, non mi ha... Questo film, cioè, non era bellissimo, ma neanche brutto. Cioè, a me è piaciuto un po', per fare il paragone con il cibo. Questo film è un'insalata buona, diciamo, però è un'insalata. Tipo, io sono andato a vedere John Wick, e John Wick era tipo 2 ore di tiramisù. Cioè, era 5 kg di tiramisù che si vengono ficcati in gola a forza. Cioè, è anche un film un po' diverso, cioè parla è un po'... No, però dico, per fare... Vabbè, sono anche due piatti diversi, cioè uno è un piatto normale, l'altro è un dessert che non puoi... Vabbè. Mi dissocio. Va bene, Andrea, dici qualcosa tu invece. Ma guarda, non lo so, hai detto tutto tu, quello che volevo dire, sono d'accordissimo con te, cioè... A me è anche piaciuto, e proprio per cioè, i fattori che hai detto, la musica, anche cioè, appunto perché anche se è un film, cioè, drammatico, tra virgolette, è molto leggero e godibile. E... Sì, mi rimane un'unica domanda. Viggo Mortensen è grasso così nella vita vera? Questa domanda rimarrà aperta. Secondo me no. Cioè, a parte i capelli, che poverino, già ne aveva pochi prima, di fronte alta, se sembro io. No, vabbè, ma... no, secondo me è successo questo. Lui ha finito di girare il film, si è tolto la panza finta e l'ha passata a Chris Hemsworth, tipo passaggio della torcia, come si dice, del... vabbè. Lo sai che hai appena detto, Comunque, Andrea, una roba che non dovevi dire. come adesso andrà una cosa non devo dire? Vabbè, comunque. Ah no, che altro volevo dire? Ah sì, una cosa che va menzionata di questo film è che la maggior parte delle persone che ci hanno lavorato sono bianche, cioè dicono al di là degli attori, cioè la maggior parte delle persone nella crew sono bianche, che non vuol dire un cazzo, lo so, però non lo so, mia... Vabbè, ma dove è girato? Non ho idea, sai? Dove l'hanno girato? Magari se boh, in California, non so. Non ho idea, Non vabbè. so quant'è la Ti percentuale. ando a indovinare Perché ti dirà direi la percentuale di Vancouver. afroamericani in America è alta, ma non è così. Ma varia. Sì. Bene, Non lo so, sinceramente. New Orleans. Beh, New Orleans, cazzo, non ce ne stanno pochi afroamericani. Vabbè, non lo so, mi aveva colpito come fatto che avevo letto. scusa, sei laggato un secondo. Sei interrotto un secondo. L'avevo letto da che parte questo fatto e mi è venuto in mente, niente, non vuol dire nulla. No, Magari, però. ci sta, però. Boh. Comunque, se Comunque. sono fatti realmente accaduti, quello che mi dicevi prima tu, Salla, cioè non lo possiamo sapere, dato che i due protagonisti, cioè, se ne sono andati nel 2013, mi pare, sono Ma dici morti entrambi. del se era omosessuale o Oltre a quello, no? Ah, proprio ok. cioè, i fatti, cioè, Ah, ok. come Se è della andato. storia, se è romanzata, cioè, un po' sicuramente sarà romanzata, però... Se cioè, realmente i fatti realmente accaduti sono Ma così. lui è il Tony Lip che ha l'attore? O non c'entra un cazzo? Tony Lip attore? Sì. Oddio, non credo, non lo Non credo, no. No, non so, perché c'è un attore, Tony Lip, che ha fatto un sacco di film fighi. Ah, è vero. Che non conosci? Che Potrebbe attore di essere. merda. Sì, con... sì, Ok. que... sì, è lui perché con il. Sì, è lui, è lui, è lui. Sì, ma. Cioè, nel senso, se è diventato attore dopo, non Sì, sarà no, beh, diventato certo. Ah no, vabbè, comunque niente. Dai, vabbè, se non avete attore. altro da dire, noi possiamo anche fermarci qua. E giusto oggi io non volevo fare una rubrica, non so se Jacopo tu hai in mente qualcosa, ma pensavo di parlare di due robe diverse. Come rubrica io ho qualcosa, ma magari parliamo prima di altro. Allora, volevo innanzitutto dire che in questa settimana, cioè oggi che registriamo, ma in realtà usciremo dopo. Comunque, questa settimana è uscito ufficialmente il trailer del nuovo film di Tarantino e io sono eccitatissimo. E vabbè, e niente. Niente, che Non c'è dire. niente da dire, a parte che ho visto un Brad Pitt vecchissimo. E vabbè, è un po' mi dispiace, mi viene un po' il magone. E una Margot Robbie bellissima, ma questo Vabbè, non questo c'era sì. problema. E l'altra cosa di cui volevo dire è che avevamo fatto una puntata extra tempo fa sul terzo episodio di Game of Thrones. E in questa settimana si è conclusa almeno la versione originale, cioè in lingua originale, la versione inglese. E niente, io allora confermo tutto quello che ho detto per il terzo episodio, ma smentisco tutto quello che ho detto per gli ultimi tre episodi. Jacopo forse non se l'aspettava, perché in realtà non mi sono piaciuti. Nel senso che, vabbè, che sono un po', cioè, sono rimasto deluso lo stesso. Non ci saranno spoiler in questo episodio, quindi potete continuare ad ascoltare. Volevo solo fare un breve commento, non so se abbiamo il tempo. Vabbè, il podcast è mio, faccio come cazzo mi pare. E poi magari anche Jacopo mi dice cosa ne pensa. Che in questi giorni ne hanno parlato tutti, quindi boh, magari diamo anche la nostra opinione. Questo va contro i principi di questo podcast, Hai ma va ragione, hai bene. ragione. No, Ma è giusto, però andare contro i principi del podcast va contro. ci sono stati un sacco di problemi e di commenti, soprattutto sull'ultimo episodio, e come si è conclusa, come sono stati gestiti i personaggi. Secondo me sono tutte delle cazzate, cioè, no, cioè, sono serie, nel senso, noi possiamo dire che i personaggi non sono stati gestiti come Martin in origine aveva pensato di gestirli, nel senso che hanno perso parte della loro caratterizzazione, non sono descritti bene come un tempo, eccetera, ma sulle scelte, sugli avvenimenti e i fatti, su cosa succede, basta, silenzio, cioè. È l'autore che decide, se no ve lo scrivete voi il libro, se no giocate di ruolo, cioè di cosa stiamo parlando? Non è che potete lamentarvi questo è vivo, questo è morto, questo ha fatto quell'altro, è così che va la storia, non è che ci lamentiamo perché Anakin è passato al lato oscuro alla fine del terzo film di Star Wars. Cioè è così che hanno deciso la storia ed è così, Spoiler. esatto, è così che va la Oddio! storia. Non ha senso lamentarsi di com'è andata. Poi ognuno ovviamente è liberissimo di dare la sua opinione, però cioè, le scelte artistiche restano scelte artistiche. Si può lamentare della coerenza, si può lamentare di un sacco di cose, ma non di com'è andato nel finale. Tutto qui. Non so se Jacopo vuole aggiungere qualcosa. Ho ripetuto la stessa cosa tipo 3 volte a 3 persone diverse, però boh, sì, anch'io, nel senso, dopo l'episodio 3 ormai. Nel suo complesso non è andata male questa stagione. È ovvio che le persone si lamentano, ma questa serie è una serie fantasy seguita da il 90% della popolazione occidentale che non segue serie fantasy. Quindi. Ma secondo me non è quello, cioè è che era una serie che si basava molto su rispettare i personaggi e dare una coerenza quasi realistica all'ambiente Ma nell'ultimo fantasy, episodio cioè. c'è stato, Oddio, sì, ma Beh, se uno doveva crepar no, male, è crepato cioè. male. Ma Sì e infatti no, sono cioè d'accordo. comunque lì c'era sempre necessità di trama, c'era sempre andare avanti così, cioè. Per raggiungere dei punti necessari, cioè era molto scritta secondo me al contrario, cioè partendo da dei punti che dovevano raggiungere e tornando indietro a giustificarli con i personaggi, cioè che ci sta, lo puoi fare, però da una serie che di solito era costruita sui personaggi prima e la storia dopo fa un po' strano. Non è come magari un fantasy normale tipo Signore degli Anelli che è molto mitologico, molto cioè Beh, però sulla storia. sono state molte riflessioni, si è parlato molto, ci sono stati molti Sì, momenti sì, di sì. gente che camminava, per esempio, che nella settima stagione era impossibile da vedere perché tutti correvano, si teletrasportavano da parte a parte, ed è molto in linea con la serie TV originale. Non lo so, cioè, sì, però Ognuno può ripeto, essere la scontento serie. di com'è andata, però. Questo rimane, cioè nel senso, poi dopo è l'artista che decide come concludere. Ma certo, infatti sono contrario alla petizione, alla famosa petizione. Va bene, basta. Andrea poi non l'ha vista, quindi non la vedrà mai, immagino. Mai, mai. Perché Schifo. Andrea? Ah, Andrea, non ti perché perdi ti vuoi fare l'hipster? un granché, cioè nel senso, puoi leggere i libri tranquillamente. Quelli che sono usciti. Ok. Comunque, questa settimana la rubrica è su la lucertola più amata da tutto il mondo, cioè Godzilla. Perché tra Ah, è 9 giorni il lucertolone Pacioccone esce con il suo sequel vero. Io Godzilla non ho 2 visto King il of primo. Monsters. Ok, vabbè, non importa. Io l'ho visto e c'è Godzilla per tipo 3 minuti su 105, una cosa del genere. Davvero? Ma scusami, ma il Sì. primo, Scusami, il primo è quello che ci sono altri kaiju, no? Come? Ci sono altri kaiju oltre Godzilla. Esatto, il primo è quello del 2014 e tutte le scene comunque in cui c'è Godzilla in un modo o nell'altro, perché anche se c'è per poco tempo, comunque fa un buon lavoro a darti senso della sua stazza, della sua forza, insomma, del tipo di mostro che è e di che cosa rappresenta. Cioè, in realtà quella parte è fatta bene. Il problema è che, appunto, la maggior parte del tempo segui Quicksilver e Scarlet Witch e coso, e quello di Breaking Bad che fanno cose, quindi è abbastanza Oddio, è quella merda, noioso. quello del 2014, quel film di Esatto. merda. Che schifo! Non è È vero. quello che ti dicevo l'altro giorno, delle testate nucleari analogiche e digitali. Che merda! Non è vero, Ma Salasta sta proprio che mentendo. schifo! Il regista È non è fuori molto sugli bravo. Stati Uniti, che schifo! Non è vero, non è vero. Silenzio, È come guardare eretico. Pearl Harbor. No, Non è neanche. vero. Salvate il soldato Ryan. No, non è un film bello, ma non è neanche questa... Porca troia. Comunque, vabbè, ti dico, su Rotten Tomatoes, il primo film del 2014 ha 75% di consenso della critica, quindi molto alto in Ma che realtà. Più merda, ma che i critici sono alto di John stupidi. Wick 3, che secondo me è stupendo, lasciamo perdere. E 66% del pubblico, quindi la differenza tra la critica e il pubblico è del 9%, questo scarto. Secondo voi quanto sarà alto questo scarto per il sequel dopo una settimana che è uscito, comunque quando controlleremo dopo una settimana che è uscito circa? Allora, andiamo per ordine. L'ultima volta Davvero la posso dire sta cosa? Cioè, veramente è assurdo che la critica dia un voto alto a un film di merda. Perché la critica è americana. la sala, ecco, detto una frase che è, cioè, non ha senso. Che vuol dire che la critica non può premiare un film brutto? È la cosa che succede No, nel senso che sempre. questo È la film cosa. qua dici, è come con i videogiochi, cioè fa cagare. Voto Esatto. alto. È come fai tu anche, cioè, è giusto. No, piano. Cioè, questo è un film che vuole essere bello e invece è brutto. Beh, no, in effetti è quello che faccio io. È proprio il tuo film. E Sì, ma merda, dai. È quindi è analogico. bellissimo. Cioè, dai, ti prego. È quello lì che dice la testata. No, è analogica. È quello lì. Non mi ricordo questa parte, l'ho Sì, rimossa quello in realtà. lì. Ha Devo essere incassato pure onesto. tanto. Beh, Devo certo, essere perché è una onesto scuola, si è che... incassato tanto. Noi siamo geologi. Beh, tanto non tantissime, ha incassato meno di coso, di Green Book. No, no, aspetta, questo è solo... Vabbè, ok, non Ah, quello è importa. solo Comunque, americano. questo è l'America. Fa tipo mezzo miliardo. Comunque... Ha incassato poco, secondo me, perché Ok, costa troppo. va bene, non è un gran film. Però, se... cioè, a me le immagini di Godzilla sono rimaste impresse, quei 5 minuti in cui si... Ho capito, ma ha lo stesso spessore di Independence Day. Bello Vedi, Independence. bello. È bello. Non è Allora vero, guardate i film di dai. Dwayne Johnson, cioè che cazzo vi devo dire? Vabbè, Ma andiamo. guardate i film Quando con gli vuoi. americani che sono grossi e fanno i fighi. Quando vuoi, E Sala, poi quando vuoi. per fare i fighi, e poi fanno i No, fighi, non è vero, non l'ho visto Independence. ma ambientano le stesse scene a Hong Kong perché così almeno i cinesi possono pagarli. Se no non c'hanno i soldi. Esatto. Hai appena scritto così. È Esatto. perfetto, è perfetto. E va bene. Comunque, No, questi film qua vabbè. avevo un immaginario di insieme. Questa è una merda. Vabbè, immaginiamo insieme, gli americani vincono. Comunque, ditemi cosa pensate. Prima, Andrea, differenza fra critica e pubblico per Godzilla 2, King of Monsters. Ma che è in positivo e negativo. Sì. Non... No, Vai, facciamo. Vai. No, no, vai, dimmi. facciamo che non è positivo o negativo, è valore assoluto. Difficile. Cosa? Vai, Andrea. Non saprei, non lo so. Beh, ti ricordo 75-66 per Godzilla 1. Circa 75. 9%. 9%. 75-66, quindi 9%. 75 positivo? Sì, 75% critici l'hanno apprezzato e 66% del Ah. pubblico. Ok, Quindi vabbè, una 9%. differenza. Dico 18. Porca troia, si Oh. spezza proprio così. Questa è una scommessa di fuoco. Salla. 4%. Ah, Salla. Cioè, io avrei Si detto meno prende. 4%, ma a quanto pare non servono i. Oddio, io pure volevo fare 4%. Ora fa 6%. Ok. E questo lo controlleremo perché mi sa che non andremo a vedere noi tre. Ah, io Non credo purtroppo proprio. non me lo posso permettere. Salla il poverello. Ah sì, se volete dare donazioni a Salla vi Sì, esatto, lascio se i volete commenti darmi in PayPal. donazioni per mandarmi al cinema, grazie, vi do il O anche solo per passo. farvi ordinare cose su Amazon. Ho capito, ma sai quanto costa vedere un film al cinema, uno qualsiasi? È tipo dai Beh, in 20 ai Danimarca 20 euro. costerà. No, non lo Ah, sappiamo cazzo! quanto 20 costa. euro. Cioè, è esattamente il doppio di quello che paghi in Italia. Almeno nel cinema qua di fianco, magari ce ne sono, non lo so, mille meno. Porco due. Va bene, ok. E questa era la scommessa di questa settimana. C'era una. No, non c'era una già da. Ce Da n'era dei uno già, risultati. no, perché l'altra volta abbiamo fatto chi riuscirebbe a uccidere John Wick, mi sembra. Ah, ok, sì. La volta prima abbiamo fatto chi ha la storia dell'origine brutta tra Jar Jar Binks, Matt Damon e un altro che poi Sal ha scartato a priori, ha vinto Matt Damon. Nel Game of Thrones non l'avevamo No, perché era una roba a e caso. quella prima Ma l'abbiamo già tanto. risolta. Sì. Siamo a posto. Va bene, dai, allora chiudo. Allora, volevamo fare un episodio serio e lo faremo, credo. A luglio. Però, esatto, abbiamo alcuni problemi per convincere le persone a farlo. Sì, perché c'è questa attrice famosa che ha problemi di, come posso dire, ha l'agenda un po' piena, Si vergogna, quindi non è ci bello. vergogna. E basta, andate a vedere Green Book perché è bello. E se non vi piace, almeno vi siete Perché passati. dici così? Allora, facciamo così, se No, non vi piace Green perché Book. sto immaginando la faccia di Jacopo che fa tipo. No, no, no, se non vi piace Green Book, andate a vedere Godzilla. Mettiamolo così. No, andate a vedere Green Book se non l'avete ancora visto perché è un bel film. E appunto, se male che vada, vi passate 2 ore. Ecco, dura un po' tanto per me poi. A me stava Sì, passando dimmi. velocemente in realtà. Esatto, male che vada, vi passate 2 ore comunque piacevoli perché è un film appunto da televisione. Ve lo Davvero? consigliamo anche in lingua originale, possibilmente. Sì, Sì, assolutamente. decisamente. Soprattutto se siete italiani. Non so se qualche straniero ascolta questo podcast. Guarda, se sei straniero, prendi un italiano e fatti del podcast. A posto, risolto. Va bene, noi ci vediamo Ok. sabato prossimo, e, sempre qui su tutti i nostri canali. Ciao ciao! Ciao.